Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, le borse, dopo il calo soprattutto per Madrid e Milano di ieri, oggi la situazione non è così delicata, non è così pesante, però Milano resta tra le peggiori, meno 0,87%, perché Parigi guadagna lo 0,80%, Francoforte lo 0,20%, e Londra lo 0,34%, mentre l'America sta guadagnando sul Dow Jones lo 0,64%. A penalizzare Milano oggi non ci sono solo le banche, ma anche e soprattutto Telecom Italia, meno 5,21% in questo momento, e giudizi negativi di analisti, poi ne parleremo poi durante l'approfondimento di borsa. Male però anche altre banche: la Popolare Emilia Romagna meno 3,80%, UbiBanca meno 2,60%, Monte dei Paschi meno 2,5%, Intesa San Paolo meno 1,80% come Unicredit, e ancora Generali meno 1,20%. Fronte opposto invece: Pirelli guadagna l'1,70%, Terna l'1,50%, Parmalat l'1,5% anch'essa, Mediolanum più 1,20%, Popolare di Milano più 1,1% come Steamicro Electronics e Autogrill. Tra l'altro non è un caso che la Popolare di Milano sia l'unica tra le banche positiva, perché ieri il Consiglio di Gestione ha dato un'accelerata alla trasformazione della banca da Popolare in SPA, e sappiamo che per il mercato, insomma, una banca che diventa SPA e non più Popolare è più contendibile, più scalabile, mettiamolo così, perché le banche popolari hanno tutto un regolamento loro che le rende difficilmente contendibili dal voto capitario ad altre caratteristiche. Per questo, per quello che riguarda la borsa, però oggi arrivano anche notizie dall'Europa, e poi ne leggeremo, che ci porteranno a approfondire, perché in realtà sono diverse fonti: l'Ocse, che va a vedere l'Italia in che parte è della classifica sulla pressione fiscale sui salari, e il cuneo fiscale in Italia è al 47,6% per un single senza figli, cioè se costa all'azienda o alla società per cui lavora 100, in busta paga ottiene solo 53, anzi un po' di meno, 52,4. Questo rapporto Ocse. Noi siamo sesti, hanno preso come riferimento un single senza figli, siamo dietro al Belgio e alla Francia, dove la pressione fiscale è al 56% in Belgio e al 50% in Francia, ma anche alla Germania, dove è al 49,7%, Ungheria 49%, Austria 48,9%. Però siamo in coda alla classifica dei salari, dietro anche la Spagna. Sempre rapporto Ocse: salario netto medio di un single senza figli in Italia nel 2012 è stato di 19.460 euro, o meglio in dollari, perché il rapporto è fatto in dollari, è 25.300 dollari. Siamo messi meglio della Grecia e del Portogallo, ma siamo messi peggio della Spagna, dove la media fa 27.000 dollari, dell'Irlanda 32.000, e dei grandi paesi dell'Unione Europea come Francia, Germania e Gran Bretagna, che viaggiano dai 30 ai 39.000 dollari. Ripeto, è il salario medio in Italia per un single senza figli a carico. Dicevo, poi ci sono altri rapporti sul costo orario, in cui noi siamo sotto come costo del lavoro alla Germania. La produttività italiana che è andata male negli ultimi mesi dell'anno, però l'Italia, si segnala in un altro rapporto di Bruxelles, è il paese dove nel 2012 le famiglie italiane sono state quelle più colpite dalla crisi. Perché il calo del potere d'acquisto del 15%, il calo l'aumento della popolazione in difficoltà economica è al 15%, contro dati, per carità, brutti, ma inferiori al nostro in Bulgaria, Cipro, Irlanda, Portogallo, Grecia e Spagna. E poi è uscito il documento economico, il DEF del governo, peso del fisco da record al 44,4%, la spesa per le pensioni tocca il 16% del PIL a 5 miliardi e 7, però la spesa per interessi sul nostro debito, quello che dobbiamo offrire per trovare finanziatori per il nostro debito, è scesa grazie a uno spread che è calato a 83,9 miliardi contro una precedente previsione di 89 miliardi nello scorso novembre. Questa è dimostrazione che poi quando lo spread cala, cioè quando dobbiamo offrire di meno come rendimenti per trovare compratori per il nostro debito, risparmiamo 5 miliardi e 300 milioni esattamente per quello che riguarda quest'anno. Partiamo subito con la notizia in breve. Devo dare alcune risposte sull'intervista di ieri di Davide Serra. Allora, in questo programma intervengono anche esponenti del mondo della finanza, anche se una finanza con sede a Londra. Il programma è aperto a tutti e ci sta tutta che gli ospiti non la pensino come chi vi parla, come il conduttore. È il bello anche di avere opinioni diverse, no? Come avete sentito ieri, su molte cose, su molti punti di Davide Serra io non sono d'accordo a livello anche europeo di valutazioni, però è giusto che vengano detti. Non capisco alcune polemiche sul fatto che abbiamo ospitato, manco fosse il diavolo, chi rappresenta un fondo, anzi diversi fondi che sono raggruppati sotto Algebris e lavora da Londra. Qual è il problema? Mi sembra assolutamente che non vi sia problema. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook, le altre notizie in breve. Partiamo come sempre dall'estero, dove la Banca Centrale Spagnola ha fatto una stima per il PIL spagnolo nel 2013, calerà dell'1,5% e dovrebbe tornare a crescere la Spagna nel 2014. Il deficit spagnolo è atteso nel 2013 al 6%, faccio notare che l'Italia dovrebbe chiudere sotto il 3%, che è la soglia massima prevista da Maastricht per non incorrere in sanzioni. Peggiorano le prospettive però anche per il Portogallo, quest'anno dovrebbe chiudere con un 2,3% di calo e contro una stima iniziale dell'1,9%. A Cipro invece tutte le banche cipriote restano chiuse, sono rimaste chiuse anche oggi ed è il decimo giorno consecutivo. Questo dopo la decisione del Ministero delle Finanze, arrivata ieri in tarda serata, dietro suggerimento della Banca Centrale Cipriota, per evitare gli assalti agli sportelli da parte dei clienti che vogliono chiudere i conti. Il contante inizia a scarseggiare a Cipro perché l'importo massimo che si può prelevare dai bancomat è sceso tra i 100 e i 120 euro a seconda della banca. Nel frattempo il presidente della Bank of Cyprus, secondo quanto riferisce la TV cipriota CYBC, si tratta di Andreas Artemis, che è il presidente della prima banca del paese, si sarebbe dimesso a causa dei termini di salvataggio concordato con Bruxelles. Secondo fonti ben informate, la Banca Centrale Europea avrebbe avvertito la Lettonia di non accettare investimenti russi in uscita da Cipro. Però è interessante quanto oggi riporta sul Corriere della Sera il collega Federico Fubini, perché al momento dell'ingresso di Cipro nel 2007 nella moneta unica, gli unici rilievi della Commissione Europea riguardarono la spesa sanitaria e la spesa pubblica, che andava messa più sotto controllo. Nessun problema invece veniva fatto emergere sulla struttura bancaria di Cipro. Anzi, già insomma, 6 anni fa Cipro aveva depositi bancari che valevano 10 volte il suo PIL. Ciononostante, la Commissione diceva: il sistema finanziario dell'isola è un fattore supplementare, quindi in più, a favore del via libera all'ingresso nell'euro. Ecco, era un elemento anche di forza per Cipro. E poi sul caso Cipro, oggi sono arrivate le bacchettate al presidente dell'Eurogruppo, Aaron Dijsselbloem. Io non ho capito se Dijsselbloem sia un Forrest Gump, cioè che non sa esattamente il ruolo in cui si è calato, oppure abbia un suo piano ben preciso, perché ci sta abituando a dichiarazioni che sembrerebbero avere come obiettivo quello di spaventare i mercati e gli investitori, ma magari ha un piano anche lui. Ieri ha detto che il modello di Cipro è un modello riproponibile per in caso di altre crisi bancarie nell'area euro, cioè il prelievo forzoso sui conti correnti, non solo il danno agli azionisti e agli obbligazionisti delle banche di Cipro. Chiaramente abbiamo visto la reazione della borsa ieri anche per questo. E oggi lo ha bacchettato il membro francese della Banca Centrale Europea, ha detto, lui si chiama Benoît Cœuré, ha detto: l'esperienza di Cipro non è un modello per il resto della zona euro, perché la situazione a Cipro aveva raggiunto un'ampiezza che non è comparabile con quella di alcun altro paese. E poi, riferendosi al capo dell'Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem, il membro francese della Banca Centrale Europea dice: ha avuto torto a dire che il salvataggio delle banche cipriote potrebbe servire da modello per future situazioni problematiche nell'area euro. E anche un altro consigliere della Banca Centrale Europea, Ewald Noutoni, ha detto: non si possono far paragoni, il caso Cipro è un caso a sé, non è paragonabile all'Italia. Ma in Germania il caso Cipro ha già prodotto una crepa nella fiducia dei tedeschi sulla sicurezza dei loro risparmi, e sono i tedeschi. Il 54%, stando a un sondaggio della Forza, dei cittadini tedeschi infatti non crede alle garanzie che Angela Merkel ha fornito nei giorni scorsi ai suoi concittadini. Nel frattempo entrerà nell'euro anche la Croazia, è pronta per entrare nell'Unione Europea il 1 luglio del 2013. Veniamo all'Italia, dicevamo già dei dati dell'OCSE, della Commissione Europea, di cui parleremo dopo, e anche del peso fiscale arrivato oggi dal documento economico finanziario, il DEF. L'Italia oggi ha collocato, lo ha fatto il Tesoro, 8 miliardi e mezzo di BOT, il tasso è sceso allo 0,83%, vicino ai minimi di gennaio, a febbraio si raggiunse invece un picco dell'1,23% poco prima delle elezioni. Le richieste sono state buone, pari a quasi 14 miliardi. Ultima notizia che riguarda l'Italia, sapete che c'era oggi su molti giornali, anche su Sole 24 Ore, domani se ne occuperà anche Sole 24 Ore. È stato firmato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che integra l'archivio dei rapporti finanziari, quindi entro il 31 ottobre di quest'anno dovranno essere comunicate, il nuovo sistema farà un controllo su saldi, movimenti dei conti correnti e degli altri tipi di strumenti finanziari, e dovranno essere comunicate in particolare entro il 31 ottobre le informazioni relative alle diverse tipologie di rapporti attivi nel 2011. Domani il Sole 24 Ore esce con uno speciale, con un manuale per difendersi dopo i controlli del fisco, quali scelte si possono fare quando il fisco interviene sul contribuente. Nel frattempo, per quello che riguarda il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione alle imprese, oggi è arrivata una rassicurazione dal commissario Tajani, che ha detto: l'Italia può pagare i debiti arretrati, ma senza avvicinarsi troppo alla soglia del 3%. Si può pagare ma non arrivare al muro del 3%. Circa l'80% dei debiti pregressi della pubblica amministrazione verso le imprese può comunque tranquillamente essere pagato, perché già contabilizzato, e quindi non ha un impatto sul deficit ma solo sul debito. ...349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Prima di arrivare anche varie notizie, oggi le Ferrovie dello Stato che annunciano a breve un'obbligazione di 1,5 miliardi, ma anche i conti di Ansaldo, i conti STS, i conti di altre società, e poi l'analisi di queste diverse fotografie che arrivano dall'Europa sugli effetti della crisi. Torna, ahimè, in maniera prorompente il nostro appuntamento sugli sprechi del denaro pubblico. Abbassare, potrei che rosa e in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, drag e più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, drag e più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues. Allora partiamo da Milano, anzi dagli assessori, dei direttori generali, scusatemi, delle ASL e degli ospedali della Lombardia. Allora è tutto evidentemente legale, però voi mi dovete spiegare com'è possibile che anche i direttori generali di ASL e ospedali sotto inchiesta per corruzione o turbativa d'asta prenderanno il premio il prossimo che ogni anno la regione dà ai direttori generali, che sono 45 delle ASL e degli ospedali, sono 45 in Lombardia. Faccio un esempio, Luigi Gianola, manager dell'ospedale della Valtellina, è in carcere con l'accusa di aver ricevuto una mazzetta per truccare un appalto da 8.950.000 euro, però lo hanno arrestato lo scorso 12 marzo, però beccherà il bonus, il super bonus da 30.000 euro perché ha raggiunto gli obiettivi. Tra l'altro questi super bonus li beccano tutti e 30, cioè, sono 30 in classifica su appunto 45 direttori generali ASD. Ma lo beccherà anche Simona Mariani, al decimo posto nella classifica, 30.000 euro di super bonus, nonostante sia indagata dalla procura per una presunta tangente su un appalto legato a un'apparecchiatura per le cure di radioterapia e radiochirurgia. Nella stessa indagine è indagato anche il direttore generale di Chiari, Danilo Gariboldi, che ha ricevuto anche lui un bonus da 29.000 euro. E indagato anche Pasquale Cannatelli per presunto acquisto di case scontate per i figli in cambio di un appalto per le pulizie anni guarda. È in fondo alla classifica, ma prende anche lui 28.000 euro di bonus. E potrei andare avanti. Allora, c'è da dire una cosa. La regione ha paura che nel caso di sospensione dei bonus arrivino una marea di ricorsi da parte di queste persone. Io immagino che questa possa essere una giustificazione, però ciò nonostante mi chiedo come sia possibile che, non dico levarlo, ma almeno sospenderlo, perché siamo in un paese di diritto, finché non si arriva al giudizio sono tutte supposizioni, però se uno è in carcere o è indagato per tangenti quant'altro, secondo me in un'azienda privata non è che proprio ti danno il bonus perché hai raggiunto i tuoi obiettivi. Poi vediamo, se tutto cade e le imputazioni cadono, uno potrebbe tranquillamente fare richiesta, ma darglielo così in automatico per porre dei ricorsi a me sembra una follia. Nel frattempo c'è un nuovo record, è il foggiano Lucio Tarquinio, che non è un senatore del Senato romano, anche se il nome potrebbe farlo pensare. Lucio Tarquinio è un consigliere regionale in lista del PDL che è rimasto nella regione Puglia per 23 anni, dal 1990 al 2013. Ebbene, alla fine del suo mandato, tutto legale, riceverà un assegno di fine mandato di 590.000 euro lordi. I tre anni in più sono determinanti perché si moltiplica l'indennità annuale lorda per il numero delle legislature in cui si era stati in carica. Sostanzialmente si tratta di 2,5 stipendi mensili per ogni anno di carica, mentre ai lavoratori comuni, come sappiamo, tocca circa uno stipendio per ogni anno di lavoro. Un applauso perché è tutto legale e bravo Lucio Tarquinio a uscire con 590.000 euro lordi di assegno di fine mandato per il consigliere regionale. Vai, vai. Nel frattempo continuano a essere messe sotto i riflettori le spese di rappresentanza. In questo caso la regione Liguria, devono rispondere di peculato il vicepresidente del consiglio regionale della Liguria Luigi Morgillo e quattro consiglieri. Le contestazioni della procura riguardano l'utilizzo improprio dei fondi pubblici e le spese all'esame della procura sono relative al 2012-2011, riguardano soggiorni alle terme, bigiotteria, soggiorni in albergo, cene, abbonamenti a stabilimenti balneari, spese che difficilmente rientrerebbero nell'attività politica dei gruppi consiliari. E poi molti di voi vogliono sapere se dopo la decisione del presidente del CONI Malagò di abolire la tessera per lo stadio olimpico ai parlamentari, se questo vecchio vizio italiano continua. Sì, certo che continua. Devi sapere a chi mandare il fax, sostanzialmente. A Firenze, prima di ogni partita della Fiorentina, arrivano sulla scrivania di Matteo Renzi 126 biglietti omaggio, di cui 54 vanno a consiglieri e giunta, 5 presidenti di quartiere e 30 società sportive. Poi a Milano, per ogni evento allo stadio Meazza, arrivano agli 80 consiglieri comunali 2 biglietti gratis e altri 160 sono gestiti dalla segreteria del sindaco Pisapia. A Torino la Juventus invita i consiglieri comunali regionali per un atto di cortesia, ma i biglietti omaggio arrivano solo se c'è la richiesta e solo per un posto. A Napoli ogni domenica meno 100 biglietti omaggio. L'ingresso allo stadio di Palermo Barbera è un benefit addirittura, cioè riconosciuto nello statuto del consigliere come il telefonino e il computer. Sono veramente avanti, è un benefit, cioè hai il telefonino, il computer e hai l'ingresso allo stadio gratuito, ovvio, no? tutto fa brodo. Meno male che a Lecce lo scorso anno il sindaco Paolo Perrone aveva detto basta dopo le polemiche. Però passate le polemiche con il Lecce in Lega Pro, alcuni abbonamenti anche a Lecce sono stati, abbonamenti gratuiti, sono stati riattivati. ...17:33, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, si chiama ed è stato dedicato a Pietro Mennea il primo esemplare del Frecciarossa 1000 che le Ferrovie dello Stato oggi hanno presentato. È uscito dallo stabilimento Ansaldo Breda di Pistoia e i primi esemplari del supertreno che viaggerà a 360 km/h, a 400 km/h come velocità di punta, saranno in servizio commerciale tra fine 2014 e inizio 2015. È un'occasione, come già altre volte abbiamo avuto, per parlare anche delle strategie di investimento e industriali con il numero uno delle Ferrovie dello Stato, l'amministratore delegato, l'ingegner Mauro Moretti. Buonasera. Buonasera, dottor Barisoni. Mi dica una cosa, poi veniamo anche al treno, ma voi avete annunciato oggi anche che a breve chiederete un prestito, un bond, per 1,5 miliardi. Ma cosa vi serve ed è un momento giusto secondo voi, in questo, visto le turbulenze di mercato? Riteniamo che sia un momento giusto perché abbiamo una buona credibilità e c'è anche liquidità sul mercato alla ricerca di buone occasioni. Questi soldi ci servono per poter naturalmente finanziare, avere liquidità per gli investimenti che stiamo facendo e per pagare fornitori. Naturalmente abbiamo necessità di fare questa operazione anche perché abbiamo crediti scaduti e parecchi verso le regioni e anche in parte verso lo Stato, e quindi abbiamo bisogno di riuscire ad avere gli strumenti per poter continuare a lavorare e contribuire al progresso del nostro paese, come lo dimostra il Frecciarossa 1000 oggi uscito dagli stabilimenti di Ansaldo Breda. E adesso ci arriviamo, ma lei diceva per pagare stipendi ma anche fornitori con crediti scaduti con lo Stato e le regioni, ammontano questi crediti con lo Stato e le regioni? Perché lì c'è una polemica in corso da mesi. Complessivamente tra regioni e Stato siamo oltre i 2 miliardi. 2 miliardi? Le regioni sono 1,2 miliardi, 1,3 miliardi. Ecco, lì, se ben ricordo, ingegnere Moretti, cioè perché c'è una convenzione, la regione deve firmare con voi una convenzione che riguarda poi anche il trasporto regionale, quindi quello anche... Non è una convenzione, anche... è un vero e proprio contratto. Contratto. In cui la regione piglia un servizio, noi glielo rendiamo e lo vende. E noi... In questo momento le regioni hanno pochi soldi e quindi da un lato hanno chiesto di ridurre, non tutte le regioni, ma alcune, parecchie, hanno chiesto di ridurre il numero di servizi e questo contribuisce a rendere ancora più difficile per i pendolari il trasporto, visto che i treni sono sempre più affollati, già che le regioni diminuiscono il numero di treni che vengono comprati. È un po' come se lei deve andare a fare una gita turistica con un autobus, con una corriera, un bus da 50 posti e ne carica sopra 100. Lei capisce che stare in 100 al posto di 50 si sta molto male, ma se soldi non ce ne sono e le regioni ci chiedono solamente un bus da 50, noi diamo quello. Oltre a questo, anche il bus che ci chiedono, sebbene molto affollato, ha dei problemi a essere pagato quando compie il suo servizio. Quindi vi chiedono meno treni, e da lì l'affollamento... Meno servizi, quindi meno treni. Meno servizi, meno tutti treni. I problemi dei pendolari, e poi ci pagano a piangere. Ah, ok, e poi vi pagano a piangere, da lì... Immagini quante imprese vorrebbero fare lavori di questo genere. Ecco, ma di questi 2 miliardi, quant'è che... 1 miliardo e 2, mi diceva? Sì. Sono... di pertinenza delle regioni. Sì, con ricadute poi negative, oltre che su di voi, anche e soprattutto sui pendolari, mi scusi perché poi... I pendolari, come visto che hanno davanti noi, si arrabbiano con noi, senza sapere l'origine dei loro problemi. Cioè che voi offrite il servizio che la regione è disposta a pagare. Le regioni, essere... quando fanno un contratto con noi, definiscono in quel contratto quanti treni, dove devono fermare, quante carrozze per ogni treno, quanti posti per ogni carrozza e anche quanto vecchio è il treno. Quindi tutto. Allora, questo per quello che riguarda anche la diatriba, perché vedo già molti messaggi sui pendolari, in effetti attenzione perché poi è la regione che decide a quanto deve valere il contratto. Le regioni può intendono comprare il 50% di servizio in più. Noi in breve tempo siamo siete in grado di offrirli. Ecco, l'altra cosa, oggi voi avete presentato il Frecciarossa 1000, perché lei l'ha definito il treno più bello del mondo? Per fare un po' di marketing per le ferrovie? No, perché lo è. Se lei ha visto le fotografie e lo confronto con qualsiasi altro treno che oggi circola per il mondo o è in costruzione, senza dubbio quello è il treno più bello del mondo. Ho sotto gli occhi una rivista indiana di automobili, tipo le nostre quattro ruote per intendere, e in piena pagina, a metà pagina, è presentato il nostro Frecciarossa come il nuovo prodotto di stile italiano, naturalmente indicato anche il designer Bertone, come modello di riferimento per il nostro stile per il futuro. Ecco, questo è il treno che permetterà di fare la tratta più remunerativa in generale, cioè la Milano-Roma in 2 ore e 30? È un treno che quando sarà a regime, cioè 2015, avrà fatto tutti i test, dal 2015 vedremo se riusciamo a fare tutti i test, con la stessa infrastruttura, utilizzando un moderno sistema di tilting, diciamo così, potrà fare 2 ore e 20 tra Milano Centrale, Roma Termini. Se poi facciamo le stazioni intermedie, come Rogoredo, Tiburtina, tagliamo altri 15 minuti, 20 minuti. Ecco, per cui 2 ore e 20 addirittura e tagliano le stazioni intermedie 2 ore o 2 ore e 05. Ecco, glielo chiedo perché voi adesso avete la concorrenza anche di EasyJet sulla tratta Fiumicino-Linate, che è una concorrenza, non è che ci metta meno l'aereo di EasyJet rispetto all'Italia, però magari con dei prezzi più abbordabili. Vi preoccupa? Certo che ci preoccupa, perché se non fossimo preoccupati saremmo degli sprovveduti. Il mercato è un mercato duro, il mercato dei trasporti è ancora più duro perché ci sono margini molto molto risicati e quindi tutta la concorrenza ci preoccupa e d'altra parte ci stimola a fare meglio. Oggi ho voluto dire ai miei fornitori che io rappresento, quando loro si lamentano perché sono piuttosto duro nelle mie richieste, rappresento i miei clienti. I miei clienti pretendono dai miei fornitori un prodotto che sia ancora più efficace, più prestante, più bello, più confortevole. E noi dobbiamo darglielo, e dobbiamo darglielo a un prezzo che riesca a stare in concorrenza con gli altri. Noi partiamo da 29 euro e abbiamo parecchie centinaia di migliaia di posti in offerta a questo tipo di livello. Ecco, però non è un mistero che nel frattempo, mentre EasyJet si è aggiudicata quella tratta, voi avete fatto questo investimento, Alitalia viaggia in grosse difficoltà anche sull'aumento di capitale, il prestito obbligazionario convertibile da 150 milioni per ora è stato sottoscritto soltanto per 100 milioni di euro. Air France allunga i tempi, insomma, l'ipotesi di una fusione all'Italia, Ferrovie dello Stato, cioè voi avete i soldi, avete la massa critica, no? Noi abbiamo i soldi per fare il nostro mestiere, tutto quello che riguarda la parte aerea è una cosa che deve essere approfondita, ma prima di tutto ha bisogno anche di una, come dire, valutazione politica, quindi in questo momento stiamo guardando auspichiamo e auguriamo dall'Italia che riesca a risolvere i suoi problemi, perché è un'impresa italiana e abbiamo bisogno di imprese che nel mondo riescano a reggere, non di imprese che falliscono. Noi stessi, come ho detto oggi, riteniamo il Freccia Rossa 1000 il simbolo della nostra svolta, della nostra riconversione. Siamo partiti 6 anni fa in condizioni peggiori, non di questa Alitalia, ma della vecchia Alitalia che è già fallita, e oggi siamo un'azienda solida, un'azienda dal punto di vista economico e anche finanziario, i bond si fanno e non sono certamente un problema doverli ripagare, siamo un'azienda solida che ha un piano industriale importante, ha tanti investimenti da fare. Oggi ho detto che non presenteremo solamente lo stabilimento di Ansaldo Breme di Freccia Rossa 1000, ma nello stesso stabilimento si sta costruendo il Vivalto, il treno per il trasporto locale. Stiamo facendo 5 miliardi di investimenti nei treni nuovi, di cui 1,5 in alta velocità, 2,5 in trasporto per i treni pendolari e 1 miliardo per gli altri tipi di treni. Ecco, i treni pendolari nuovi, visto che apprendiamo con favore che c'è una quota importante dei vostri investimenti, dei vostri 5 miliardi dedicata al trasporto locale, regionale, pendolari, saranno anche più puliti? Perché molti ascoltatori si lamentano che va bene le regioni, l'accordo con le regioni, però anche la gestione del treno stesso, io uso un eufemismo, lascia un po' a desiderare delle volte, cioè che come se fossero... Vede, il problema della pulizia dei treni è strettamente connessa all'affollamento del treno. Se lei si trova in una situazione di troppo affollamento, cioè effetto sardina, lei usa male il treno, è portato lei stesso a rovinarlo e a sporcarlo. E in quel momento è molto difficile poter riprendere il treno in pulizia. Questa cosa si potrebbe risolvere se, come ho detto, soprattutto nelle grandi città e nelle ore di punta, si aumentasse in maniera importante il servizio. Non sto parlando di poco, bisogna aumentarlo del 50%. Allora i treni potrebbero essere meglio gestiti, abbiamo anche del personale di pulizia a bordo, ma lei capisce che la mattina, quando sono tutti lì come delle sardine, il personale di pulizia non può neanche girare per il treno a fare il suo mestiere. Quindi dobbiamo risolvere soprattutto questo primo problema. Il servizio sui treni pendolari in Italia ha un'offerta troppo limitata rispetto alla domanda. La tendenza attuale è quella di addirittura incredibilmente ridurlo per ragioni finanziarie da parte delle regioni. Questo va controtendenza rispetto alla domanda e non fa altro che appesantire ancora di più le difficoltà in cui i pendolari possono viaggiare. Ricordo che in Italia, tra il contributo, il biglietto o l'abbonamento dei pendolari e quello delle regioni, noi prendiamo 11 centesimi per un passeggero che si muove per 1 chilometro, contro i 20 in Germania, i 26 in Francia e i 33-42 in Gran Bretagna. Capisce che è abbastanza difficile fare buoni servizi, renderli puliti, treni nuovi, con dei prezzi di questo genere qua. Quindi lo sforzo che il Paese deve fare in questo caso, per essere un Paese civile, nelle grandi città, deve investire di più. E deve investire in servizi, treni, trasporto regionale, ma deve investire anche più in infrastrutture. Noi non abbiamo più bisogno di tante infrastrutture fuori dalle città. Noi dobbiamo infrastrutturare le città grandi e metterli a tutte una robusta cura del ferro, o siano ferrovie pesanti o ferrovie leggere, light rail o metropolitane, ma senza questo tipo di interventi le nostre città non possono più funzionare, non sono più attraenti, non interessano più a nessuno, in particolare non interessano alle persone e alle imprese innovative che girano per il mondo e hanno tante opportunità migliori di insediarsi in città più attraenti e più funzionanti. Allora, dicevamo oggi giornata di borsa interessante, però anche parecchi dati e bilanci presentati. Nel caso specifico il gruppo Ansaldo CTS, che è società del gruppo Finmeccanica, Finmeccanica infatti ne ha il 40%, ed è una delle società di punta a livello mondiale nei sistemi di trasporto ferroviario convenzionale per alta velocità. Sostanzialmente fa anche e soprattutto tutta l'attività di segnaletica e di segnalamento nelle metropolitane, per esempio nella metropolitana nuova a Milano, quella automatica, addirittura la tecnologia driverless, quindi senza conducente a bordo. Ha vinto l'appalto per quello che riguarda Copenaghen, è entrata nell'esercizio nel 2002 e appunto è uno dei leader in questo settore. Sta completando le metropolitane Honolulu, Taipei, Riyadh, Salonicco, Roma, Brescia, appunto Copenaghen e Milano. Vediamo i dati che oggi ha diffuso. I ricavi 2015 sono previsti in rialzo a 1,5/1,7 miliardi di euro, con un indebitamento in leggero aumento. Siamo in collegamento con il direttore finanziario Christian Andi, buonasera, che ancora non è in collegamento, mi fanno notare, perché in questi ricavi alla quota 1,5-1,7 miliardi entro 2015, attualmente siamo a 1 miliardo e 240 milioni, sono previsti in crescita grazie a un portafoglio ordini che dovrebbe crescere, cioè quindi i lavori futuri, e passare da 5 miliardi 680 a più o meno 6 miliardi e mezzo. Ecco, è in collegamento adesso il direttore finanziario della Sada CTS, Christian Andi. Buonasera. Buonasera a lei. Ecco, come mai così positivi? Cioè, non è un peccato in questo periodo, però. In realtà le nostre stime al 2015 rispetto al vecchio piano strategico sono leggermente più conservative, in particolare. Mi scusi, che sono sul cellulare. Prego. In particolare in termini di portafoglio ordini, che continua a crescere con un rapporto rispetto ai ricavi superiore a 1, ma comunque che nel tempo tende a diventare appunto molto vicino all'1, quindi che ci consente di crescere ma in maniera un pochettino più conservativa rispetto alle previsioni del nostro vecchio piano strategico. In termini di ricavi, il nostro business, che è un business che lavora su progetti che hanno durata, che va dai 3 anni nel mondo delle tecnologie del segnalamento ai 5 anni medi nel mondo delle soluzioni di trasporto, ci dà una grande visibilità, insomma una significativa visibilità sul futuro, tant'è vero che le nostre previsioni al 2015 di circa 1,5 miliardi, 1,7 miliardi di ricavi sono per il 60%, circa 58%, coperte da progetti che abbiamo già in portafoglio ordini oggi. Ma mi scusi, il titolo oggi tra l'altro ha chiuso abbastanza bene, nel senso che ha chiuso in aumento dello 0,60% a 7,1 euro. Secondo lei continua a muoversi su questi vostri risultati, prospettive, o sull'ipotesi che prima o poi Finmeccanica vi venda? Sicuramente anche nella nostra presentazione di oggi noi abbiamo sottolineato due dei nostri delle nostre sfide strategiche, così come siamo, tant'è vero che le nostre stime in termini di ordini sono leggermente più conservative, così come siamo noi nel lungo termine abbiamo un problema strategico legato alla dimensione di Ansaldo, così com'è, per muoversi in business complessi come quello dei sistemi di trasporto chiavi in mano, e un problema di stabilità dell'accesso a una delle tecnologie principali per il business dei sistemi di trasporto, che è quella dei treni. Queste due criticità strategiche ci impongono di valutare opzioni strategiche che magari a qualche investitore possono anche interessare, perché potenzialmente possono portare a deal con possibili compratori eccetera, che ovviamente per gli investitori possono dare un vantaggio. Ovviamente, come ha detto lei all'inizio, non è comune in questo periodo vedere aziende che presentano risultati in crescita, e quindi questo comunque aiuta, e abbiamo tanti investitori long nel nostro cioè, portafoglio di lungo termine. Esattamente. La prossima gara che sperate di vincere? Che speriamo di vincere sicuramente, stiamo partecipando a una gara a Riyadh che prevede un piano di realizzazione di 118 km di metropolitane. In Italia non esistono, sommando tutte le metropolitane che ci sono, non esistono così tanti chilometri, 118 km di metropolitane nei prossimi 5 anni, per un valore totale che si aggira intorno ai 20 miliardi di dollari. Siamo stati prima prequalificati da soli, poi abbiamo posto in essere un consorzio, abbiamo presentato un'offerta, questa gara si dividerà in circa, verrà assegnata probabilmente con 3 lotti, hanno presentato l'offerta, diciamo, due competitor e mezzo. Noi siamo uno che ha presentato l'offerta per tutti e tre i lotti, un altro ha presentato l'offerta per tutti e tre i lotti e un terzo ha presentato l'offerta solo per due lotti. Quindi siamo lì, siamo ben posizionati, è un contratto di una dimensione che non ne abbiamo mai visti nella nostra storia. E lì fornirete la segnaletica come sempre, cioè l'automazione, no? No, forniamo il sistema completo di metropolitana come per esempio su linea 5 di Milano. Tutto, quindi tutta la metropolitana comprese, tutte le tecnologie, fornendo la nostra tecnologia segnalamento, abbiamo un partner per la parte veicoli e noi garantiamo l'integrazione tecnologica. E quindi anche la parte tecnologica vale circa 7 miliardi di dollari. Anche la tecnologia driverless, quindi senza guidatore? Sì. Bocca al lupo, perché noi tifiamo sempre Italia. Grazie al direttore finanziario Ansaldo STS Christian Andi. Grazie a lei, buonasera. E adesso la borsa. Come sempre con Radio Cori sulle 24 ore, ciao Condina, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, di Ansaldo abbiamo appena concluso di parlare, quindi andrei sul resto. Partiamo da Telecom, che oggi ha fatto più notizia delle banche, meno 5,46% in un indice che ha perso quasi l'1%, mentre le altre borse europee erano quasi tutte e sono state quasi tutte positive. Sicuramente Telecom. Su Telecom hanno pesato le indiscrezioni di stampa sul fatto che la società, che come sappiamo è tra i principali problemi quelli di un elevato indebitamento, abbia sostanzialmente rifinanziato delle passività pari a 4 miliardi di euro, spostandole a maggio 2018, a dei tassi di interesse comunque più elevati rispetto a quelli che pagava prima. Sicuramente è chiaro, di questi tempi la società paga anche, come diciamo, un elevato indebitamento e quindi le banche, i creditori chiedono una remunerazione superiore. Se a ciò si aggiungono anche alcuni giudizi negativi da parte delle banche d'affari come Barclays e Merrill Lynch, insomma gli acquisti e le vendite sono sicuramente confluiti su questo titolo. E questo per quello che riguarda Telecom, che scende a 56 centesimi di euro operazione. Poi di nuovo le banche, soprattutto quelle popolari, ma non solo, Banca Popolare Emilia Romagna meno 3,80, UbiBanca meno 3, Monte dei Paschi meno 2,80, Mediobanca meno 2,20, Banco Popolare meno 2, come Unicredit e Intesa San Paolo. Ciao. Eh sì, le banche pagano un dazio in tutta Europa, non soltanto a Milano, anche a Parigi, anche a Francoforte ci sono state delle forti vendite. Per quanto riguarda Milano c'è anche l'attesa forte per quello che è il risultato della missione degli uomini del Fondo Monetario, missione programmata di ispezione presso le banche italiane, risultati che dovrebbero essere diffusi in serata e insomma gli operatori, in attesa appunto di questa cosa, hanno venduto i titoli delle banche. C'è un'eccezione che è la Banca Popolare di Milano. Ieri c'è stato un consiglio di gestione che avrebbe impresso un'ulteriore accelerazione alla trasformazione della società in SPA, trasformazione che dovrebbe avvenire in un'assemblea fissata tra luglio e agosto, ed è chiaro che la trasformazione in SPA darà benzina al titolo, perché aprirà questa banca, come altre popolari, a risico. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, adesso concludiamo anche la pagina di borsa e poi ci occupiamo di un insieme di cose che arrivano dall'Europa. L'ultima, le agenzie l'hanno appena battuta, e sono le anticipazioni del Fondo Monetario Internazionale sulle banche italiane, dopo che gli ispettori hanno visitato le nostre banche. E adesso arriveremo. Devo dire che la valutazione è buona, nel senso che il sistema finanziario italiano è resistente ma non immune da rischi, vabbè, chi lo è, che le fondazioni hanno un ruolo importante ma servono la loro supervisione, che la vigilanza bancaria e quindi la Banca d'Italia è un pilastro sulla stabilità finanziaria, e che c'è comunque una forte posizione dal punto di vista del capitale delle banche italiane, quindi, dice il Fondo Monetario, sarebbero in grado di resistere nel loro complesso sia in uno scenario di shock mirati sia in uno di protratta crescita lenta. Però noi torniamo sulla borsa di oggi. Ciao Condina, Parmalat, dicevamo. Sì, Parmalat ha diffuso settimana scorsa i dati di bilancio. un utile che sostanzialmente è rimasto stabile, 172 milioni, un margine operativo lordo a quota 439 milioni che si è giovato dell'acquisizione dell'americana LAG, ma un dividendo decisamente inferiore rispetto all'anno passato, in virtù appunto di questi numeri, soprattutto della cedola, il titolo aveva subito dei realizzi alla fine della scorsa settimana e oggi è rimbalzato in contemporanea alla conference call sui conti e ha riguadagnato l'1,4%. Come diciamo, tra gli altri titoli positivi c'è anche Mediolanum, ma anche questo Mediolanum guadagna l'1,4% e anche questo è un movimento che segue la diffusione dei dati di bilancio avvenuti anch'essi settimana scorsa. Qui, diciamo, nonostante il contesto difficile dal punto di vista finanziario, ci sono dei dati record, un utile che è salito a quota 351 milioni, raggiungendo il livello più alto della storia del gruppo. E tra l'altro oggi bene anche un titolo di cui poco ci occupiamo, mi riferisco a Terna, più 1,30%. Eh sì, Terna, diciamo diversamente da altre utility che oggi hanno perso terreno, oggi ha guadagnato ed è vicina ai livelli più alti registrati in borsa dalla società, è un utility, un titolo diciamo difensivo, ma difensivo due volte perché le utility in questo periodo soffrono dalla scarsità di domanda elettrica. Terna invece si occupa fondamentalmente di distribuzione e quindi diciamo è un business particolarmente blindato anche in questi termini. Recentemente la società poi è stata anche premiata per aver garantito ricche remunerazioni agli azionisti, anche dividendi molto importanti, e quindi di questi tempi è un porto sicuro. Migliori e peggiori in assoluto per quello che riguarda la borsa di oggi. E allora, migliori sono Friendly Energy più 5,80, Fondiere 6 sul risparmio più 4,30, Papa Ascopiave più 3,13, peggiori Banca Intermobiliare meno 9,40, Mondo TV France meno 9,40, e Ergi Capital meno 7,60 e poi Class meno 6% e Telecom Italia abbiamo detto meno 5,46%. Grazie a Ciao Condina, Radio Cori, Sole 24 Ore, e noi invece adesso cerchiamo perché non è facile, di tenere assieme tutto un insieme di elementi che sono arrivati e che riguardano il nostro paese, ma soprattutto anche il nostro paese rispetto agli altri paesi dell'area euro. Del rapporto del Fondo Monetario Internazionale sulle nostre banche abbiamo appena detto, ripeto, è abbastanza buono. Meno buono invece quello che oggi scrive la OCSE nel rapporto Taxing Wages, e quindi le tasse in busta paga. Per un single senza figli la pressione fiscale sulla busta paga in Italia è al 47,6%, questo è il famoso cuneo fiscale. Siamo dietro al Belgio che è al 56%, alla Francia che è al 50%, la Germania che è al 49,7%, l'Ungheria e all'Austria che hanno il 49% di pressione fiscale in busta paga. Sempre guardando a un single senza figli a carico, in Italia il salario medio, spiega sempre l'OCSE, nel 2012 è stato di $25.303. È inferiore anche a quello della Spagna, $27.500, nonché dell'Irlanda, $32.000, Francia, $30.500, Germania, $33.600 e Gran Bretagna, quasi $40.000. E questo è il salario netto medio di un single senza figli nei vari paesi dell'OCSE, elaborato in dollari. Peggio di noi come salario fanno solo la Grecia, $21.500, il Portogallo, $19.800. E poi il costo del lavoro in Italia non è più alto rispetto alla Germania. In Germania è 31 euro all'ora, in Italia 27,20 euro. È la produttività italiana che continua a calare, nell'ultimo trimestre del 2012 ha avuto un crollo vero e proprio del 2,8%. Infine l'ultimo dato che cerco di tenere assieme è quello che arriva da Bruxelles e che segnala come nel 2012 l'Italia sia stato il paese dove lo stress finanziario ha avuto le conseguenze maggiori, perché ha avuto ripercussioni in Bulgaria, Cipro, Irlanda, Portogallo, Grecia, Spagna, ma soprattutto in Italia, perché sottolinea Bruxelles, è salita al 15% la popolazione che è in difficoltà economica. Volete sapere anche del provvedimento per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione? No, non c'è una bocciatura in senso stretto, perché Tajani ha detto al commissario europeo che si può fare, anche se bisogna stare attenti a non arrivare vicini al 3% del deficit per quello che riguarda il deficit. Tajani però ha anche specificato che l'80% degli arretrati possono essere già pagati perché sono già stati contabilizzati e quindi non hanno impatto sul deficit ma solo sul debito. Il tutto nel giorno in cui abbiamo assistito a a mia memoria, una delle sconfessioni più forti nella storia europea, e cioè dopo le parole improvvide quantomeno del presidente dell'Unione Europea, dell'Eurogruppo Dijsselbloem, che ieri aveva detto: attenzione, il modello Cipro è un modello che potremmo usare in Europa per altre crisi bancarie. Beh, è stato bacchettato sia dal consigliere della Banca Centrale Europea Ewald Nautoni, che ha detto la crisi bancaria a Cipro è un caso unico e non si può fare paragoni con altri paesi dell'area euro come l'Italia, ma soprattutto dal membro francese del consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, Benoît Cure, che ha detto: l'esperienza di Cipro non è un modello per il resto della zona euro, perché la situazione aveva raggiunto ampiezza che non è comparabile ad alcun altro paese. E ha continuato: il capo dell'Eurogruppo, Jeroen Dijsselbloem, ha avuto torto a dire che il salvataggio delle banche cipriote potrebbe servire da modello per future situazioni problematiche nell'area euro. Professor Franco Bruni, buonasera. Buonasera. Insegna economia monetaria internazionale all'Università Bocconi di Milano. Allora, partiamo dall'Europa, poi stringiamo sull'Italia. Poche idee ma confuse. Cioè, il presidente dell'Eurogruppo ieri terrorizza i mercati dicendo: beh, potremmo usare il prelievo forzoso sui conti correnti per altre banche in difficoltà in Europa, e oggi la Banca Centrale lo smentisce in maniera molto secca. Ma non lo so, adesso sa, le dichiarazioni si possono interpretare con vari accenti, si può dare più importanza o meno importanza, si può esasperarne l'impatto. Quello che deve essere chiaro è che in questa decisione presa con Cipro è contenuto un principio sacrosanto che per la prima volta emerge con chiarezza e che deve essere un esempio per il futuro, e cioè quando le banche sono in difficoltà ci devono andare di mezzo tutti i loro creditori, in un ordine molto preciso: prima gli azionisti, poi gli obbligazionisti non privilegiati, poi gli obbligazionisti privilegiati. Nel caso di Cipro la situazione è a questo che si, diciamo, riferiva Benoît Cure, è molto speciale, perché le banche cipriote sono finanziate al passivo pochissimo da obbligazioni rispetto agli altri e da altre forme, diciamo, più sofisticate di finanziamento, sono finanziate quasi tutte in depositi, naturalmente sono depositi in molti casi anche grandi, depositi speculativi, depositi che vengono dall'estero, dai russi e quant'altro, e quindi che tengono il posto di altre forme di passività che invece nelle banche di altri paesi non sono depositi, quindi è fatto molto colpo questa storia che sono andati a toccare i depositi, ma quelli sono i depositi per modo di dire. In realtà i depositi veri, quelli diciamo relativamente piccoli, quelli assicurati, quelli che devono essere comunque diciamo non toccati in ogni caso, quelli sono stati rispettati anche a Cipro, quindi secondo me è vero che in Cipro ci sono degli aspetti particolari e irriproducibili altrove, unici, c'è però da incassare, questo io capisco che per i banchieri possa essere anche preoccupante, insomma, e per alcune persone abituate a contare sui salvataggi delle banche a tutti i costi, che da ora in poi la logica del cosiddetto bail-in, cioè per cui le banche che falliscono non possono lasciare intatti i loro creditori, deve essere rispettata. Anzi, bisognerebbe al più presto introdurre una norma che è nei programmi della Commissione, secondo la quale le banche devono emettere comunque, soprattutto quelle sopra una certa dimensione, dei titoli speciali che automaticamente diventano azioni quando la banca entra in difficoltà e quindi perdono completamente la possibilità di essere rimborsati, in modo tale che ci sia una valvola di sicurezza pronta a fare da cuscinetto quando una banca va nei guai. Quindi lei dice il modello che paghino azionisti, poi anche obbligazionisti, è un modello corretto, sacrosanto. Faccio notare però che quando c'è stato a salvare Commerzbank in Germania, assolutamente ha ragione, o a ING in Olanda, è lo Stato che ha messo i soldi, non hanno chiesto niente agli azionisti tedeschi di Commerzbank olandesi. Lei ha ragione, infatti il vero problema è che a questa decisione l'Europa è arrivata con grande ritardo. Siamo alle soglie di questa unione bancaria in cui veramente le regole saranno uguali per tutte. Per fortuna che almeno a questo punto siamo arrivati a proclamare questo principio, ma lei ha perfettamente ragione, in Germania e in Francia sono state fatte operazioni di salvataggio veramente scandalose, ma il problema era che bisognava arrabbiarsi allora, invece allora tutti quanti hanno detto ma vuoi mica far saltare una banca, e adesso invece... Mi sembra che il problema era allora, non è adesso. Adesso ci stiamo avvicinando a saper trattare le crisi bancarie come bisogna trattarle, come per esempio le trattano gli americani. :21 Allora, mi dà un commento, professor Bruni, sul fondo monetario. Insomma, l'Italia e il sistema bancario italiano ha mostrato una notevole resistenza, anche se stabilizzato non è immune ai rischi. La vigilanza bancaria, la Banca d'Italia è un pilastro per la stabilità, c'è una forte posizione del capitale delle banche italiane. Detto così sembrerebbe rassicurante, no? Credo di sì, è da tempo che siamo consapevoli del fatto che il nostro sistema bancario, a parte episodi isolati e fraudolenti, è governato con particolare attenzione dalla Banca d'Italia e ha un management relativamente prudente che ha potuto mantenere le nostre banche, anche quelle medio-grandi, su posizioni non rischiose. Il problema delle nostre banche sono le sofferenze con le imprese che stanno male per via della congiuntura e per via di una difficile ristrutturazione per affrontare la concorrenza internazionale. E questo è il problema che pesa sui bilanci e sui conti economici delle nostre banche. Il Fondo Monetario lo ha valutato per quello che è, cioè un problema importante, ma certamente meno drammatico che quello di alcuni portafogli speculativi di banche grandi internazionali, che invece sono veramente un grosso rischio. Ecco, su Cipro è arrivato oggi invece anche la dichiarazione del ministro delle finanze cipriota, Michael Saris, che ha detto in un'intervista alla BBC: le perdite per i correntisti con depositi oltre 100.000 euro potrebbero arrivare a toccare il 40%. Well, what we do now is that those below 100,000 will not be hit. Ciò che accade ora è che i depositi sotto i 100.000 euro non verranno toccati. Per quelli sopra questa soglia, stiamo pensando agli ultimi dettagli. Dipenderà da come penseremo di trattare le pensioni e i fondi. L'esatta percentuale della perdita non è ancora stata decisa, ma posso dire che sarà significativa. Mi dispiace che i correntisti sopra i 100.000 euro dovranno subire perdite, ma fa parte dei costi enormi che dobbiamo pagare. La percentuale delle perdite per i depositi oltre i 100.000 euro potrebbe essere attorno al 40%. Non posso anticipare nulla, ma da quello che sta succedendo, credo che la perdita potrebbe aggirarsi intorno a quella percentuale. Allora, nonostante le rassicurazioni arrivate oggi, professor Bruni, in realtà c'è un sondaggio in Germania in cui il 54% dei tedeschi teme per la sicurezza dei propri risparmi nonostante le varie rassicurazioni. Lei non crede che quantomeno sia stata gestita male questa vicenda, cioè poi con l'aggiunta delle dichiarazioni un po' deliranti, a mio avviso, di Dijsselbloem? Sì, è stata gestita con improvvisazione, come sempre facciamo. Bisogna arrivare... La situazione di Cipro era arcinota, cioè non è esplosa improvvisamente uno scandalo. Certamente, no? Però i dati precisi non si conoscono perché non c'è trasparenza tra le autorità di vigilanza in Europa, e la stessa Banca Centrale Europea non ha i numeri precisi e non può averli per adesso. Occorre al più presto realizzare questa unione bancaria, la vigilanza unica, la totale trasparenza delle informazioni, e poi bisogna mettere in condizioni immediatamente gli European Stability Mechanism, cioè questo fondo europeo permanente di salvataggio, il quale, quando ci sono le banche in difficoltà in un paese in questo modo, semplicemente le prende, fa lei l'aumento di capitale, diventa padrona e poi gestisce la crisi della banca secondo dei criteri ben chiari e preordinati che tutti conoscono a ex ante. Questo è molto importante per la trasparenza e la giustizia, perché anche quello che stanno facendo adesso a Cipro non sappiamo esattamente, cioè in parte è influenzato e controllato dalla Troica, dal Fondo Monetario, eccetera, però ci sono in mezzo anche i ciprioti e chissà che non ci scappi qualche favore a qualche amico. Però, come lei anche confermava, una parte perlomeno psicologica del danno è stata fatta. Ultima domanda che ho per lei. A questo punto, lei è d'accordo che dovremmo attendere fino a settembre per avere poi una maggiore tranquillità, cioè fino all'arrivo delle elezioni tedesche, nel giorno in cui, lo ricordo, l'asta dei bot italiani non è andata male? Perché comunque la domanda è stata quasi doppia rispetto all'offerta, con rendimenti in calo, ma insomma, oppure con Cipro si chiude la partita, perché leggiamo poi delle banche slovene, ci sono timori continui, però vorrei capire se c'è ancora, secondo lei, materia per speculare. Le banche slovene sono un problema, forse ci sarà qualche altro problema. Ed è un grave problema che la Germania sia bloccata fino alle elezioni. Tutti i miei amici che hanno, diciamo, confidenza con le trattative che si fanno a Bruxelles mi dicono che è incredibile il blocco che questa storia delle elezioni sta giocando, creando in Germania, tutte le grandi questioni europee. E non è per una concorrenza fra i due partiti, perché grosso modo la posizione nei confronti dell'Europa è molto simile. È che tutti e due hanno paura di fare qualunque cosa, perché hanno paura di essere mal visti dagli elettori, che in generale sono scettici sull'Europa in maggioranza. Quindi hanno paura di fare quello che devono fare per salvare l'Europa e la Germania insieme all'Europa, perché hanno paura della stupidità dei voti dei tedeschi, che sono stupidi quanto i nostri elettori, intendiamo. E con questo, diciamo, abbiamo la casa comune europea. Grazie al professor Franco Bruni, che insegna appunto economia monetaria internazionale alla Bocconi di Milano. Da Sebastiano Barisoni veramente tutto, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi con un'altra puntata di Focus Economia. Radio 24, la passione si sente.